Radio 24 presenta Il riposo del guerriero con Stefano Gallarini. Sono le 10 e 9 minuti, buona domenica da Stefano Gallarini, comincia il riposo del guerriero. Fra l'altro, prima di iniziare c'è stato anche il promo della rubrica videogiochi che va in onda appunto il sabato alle 15.30 dentro 2024, e oggi i videogiochi in qualche modo avranno un loro spazio anche nella puntata del riposo del guerriero. Fra poco vi dico infatti di cosa parleremo. Il numero verde innanzitutto, perché alle 11.30 giochiamo con il mistero in 24 minuti, la possibilità di portarvi a casa fino a 1000 euro da spendere su libreriarizzoli.it, e devo dire che negli ultimi tempi siete particolarmente bravi, perché riuscite a portarvi a casa, se non proprio 1000 euro, comunque un gruzzoletto, credo 300 euro sia stato domenica scorsa. Il numero verde per prenotarvi 800 24 00 24, potete farlo da adesso. Vi ricordo che per arrivare alla soluzione dovrete ascoltare gli indizi che vi proporrò, e più indizi ascolterete più il premio si abbasserà. La risposta, una notizia della settimana oppure un personaggio o qualcosa di particolarmente conosciuto. Vi do anche il numero per gli sms, così potete scatenarvi se volete raccontarci la vostra storia, perché può riguardare molti di voi l'argomento di oggi. 349 238 6666. Allora, c'è un allarme come sempre, c'è sempre l'allarme su qualcosa, e qualche giorno fa Giuseppe Roma, il direttore del Censis, ha avuto un'audizione presso la Commissione del Lavoro Pubblico e Privato della Camera, perché si sta esaminando il tema dell'accesso ovviamente al mercato del lavoro, e l'allarme è questo. Ha detto: i giovani sono in via d'estinzione. Negli ultimi 10 anni, dal 2000 al 2010, abbiamo perso più di 2 milioni di cittadini di età compresa fra i 15 e i 34 anni, ma la vera anomalia italiana, aggiunge Roma, è rappresentata dai giovani che non mostrano interesse né nello studio né nel lavoro. In Italia sono l'11% rispetto al 3% della media europea. Insomma, non c'è la voglia nemmeno di cercare di buttarsi nella mischia del lavoro. Noi oggi cercheremo di raccontare qualche storia di successo, vedere quali sono le possibilità e aprire le porte al mondo, non soltanto del lavoro, ma della propria persona. Quante ombre oltre l'orizzonte, quante nei pensieri tuoi, quante nei pensieri miei, numeri infiniti da salvare, quanto amore puoi avere, più di quanto potrai dare. Ho scelto di aprire con questa ultima canzone di Raff, il cultimo, perché l'album è uscito proprio da qualche giorno, forse anche perché Raff è tornato un po' ai suoni di Cannibali, è stato un suo album di grande successo. Questo è proprio Raff con Frank Energy e Natalie. Numeri, perché di numeri si parla, i numeri che ci fanno un po' paura. Allora io, siccome parliamo di lavoro, e non posso che iniziare con Walter Passerini. Ciao Walter, buona domenica, grazie. Buongiorno, ciao a tutti e ben ritrovati. Walter, attenzione a non darne troppi di numeri. No, infatti non dobbiamo farlo, ormai consulente di enti pubblici, insomma Walter si occupa di lavoro da tantissimo tempo. E allora io vorrei proprio iniziare così con una domanda, poi passeremo al traffico e poi ritorneremo con te. E quanto dobbiamo essere spaventati da questi numeri dei giovani che sono in via di estinzione, ma soprattutto che non mostrano più interesse né nello studio né nel lavoro? Ecco, il problema è colpa dei giovani, o come qualcuno ha detto è colpa delle mamme e delle famiglie, o è colpa di chi gestisce il cosiddetto sistema economico, di istruzione, lavorativo e così via. E quindi c'è una dimensione soggettiva sicuramente, che è quella che i giovani non hanno idea di che cosa sia il lavoro. E devo dire che si è fatto molto in questi ultimi anni per abbassare il valore del lavoro come elemento di senso, di significato, oltre che di successo della propria vita. Il successo è facile, lo si ottiene senza far fatica, e questo non è assolutamente così. D'altro canto però siamo un paese che non ha ancora strumenti minimamente raffinati e efficaci per aiutare i giovani e le loro famiglie a scegliere i propri percorsi. Quindi insomma ci sono delle responsabilità stabilità e mi sembra che ci sia il gioco del cerino in corso. Devo dire che poi sono totalmente contrario a tutte quelle cose, tra l'altro mediate dalla stampa, fatte dire a Giuseppe Roma del Censis, che forse non ha detto, che in fondo studiare non abbia un gran senso. Quando si continua a sparare sulla Croce Rossa, la Croce Rossa è l'università in questo caso, ma è la scuola nel suo complesso, si fa del male ai giovani, perché il futuro è fatto di competenza, la competenza si impara. Sei stato chiarissimo, Valtteri. Aggiornamenti sul traffico, poi continuiamo a parlare con te. Il riposo del guerriero. Cervet Group, il punto di riferimento per un business sicuro e competitivo, vi presenta Strade in diretta. Buongiorno, intenso il traffico verso il mare sulla 6 Torino-Savona, in direzione Savona si incontrano code per lavori tra Millesimo e Altare. Difficoltà poi di emissione in A10 sempre verso Savona. È trafficata anche la 10 Genova-Ventimiglia, in direzione Ventimiglia si incontrano code in uscita agli svincoli di Varazze e Savona, mentre in entrambe le direzioni altre code in uscita allo svincolo di Spotorno. Ci spostiamo sulla 4 Brescia-Padova, anche qui per traffico intenso, rallentamenti in direzione Padova tra Sirmione e Peschiera. E poi in uscita allo svincolo di Peschiera si incontrano delle code. Infine al traforo del Frejus si viaggia a senso unico alternato sino alle 22 di questa sera per lavori, 20-25 minuti d'attesa su entrambi i versanti. Per ora è tutto, appuntamento tra circa mezz'ora. Il riposo del guerriero. Allora Walter, si diceva che bisogna forse ricominciare proprio dallo studio, molti mollano e cominciano a cercare un lavoro, molti appunto non cercano neanche quello e mollano e basta, e perché secondo te c'è questo disinteresse? Non so se è soltanto l'idea che tanto il successo arrivi comunque, non lo so se è solo quella, forse anche, non ma lo so. Ma io credo che dobbiamo cambiare le immagini dei nostri schermi, ecco. Non è un videogioco però, Stefano, stiamo parlando di una cosa molto reale, Puerta del Sol ne è l'esempio, i ragazzi spagnoli sono la metafora di questa vicenda. Ci sono, come dire, 5 immagini su cui si fa confusione, se posso te le dico in 30 secondi. Come no, devi. La prima è questa parola magica che si chiama crescita, le radio, le televisioni, i giornali sono piene della parola crescita. Certamente la crescita è importante, cioè quanta e quale però crescita, non si può parlare di crescita solo in termini quantitativi. Siamo un paese di piccole imprese, come possono essere aiutate le piccole imprese a migliorare la crescita? Come coinvolgere i giovani? Quale crescita? Perché dobbiamo chiedere ai giovani quale crescita volete, perché se le decisioni sulla crescita le stabiliscono gli ottantenni, probabilmente il prossimo futuro non li vedrà protagonisti di questa crescita, quindi coinvolgere i giovani nel definire quale, oltre che quanta crescita. Secondo, i contratti di ingresso. Certo l'apprendistato è molto importante e così via, ma ci sono troppi contratti e troppe formule fasulle. Per esempio c'è un abuso degli stage in questo momento in Italia, quindi l'avvicinamento al lavoro diventa difficile e in qualche modo mal interpretato, perché il giovane dice ma come, mi offrite solo stage, se questo è il lavoro non mi interessa. Sì. Terzo, mancanza di orientamento, ma su questo non vorrei dilungarmi molto, mercoledì a Roma c'è un rapporto molto importante, vedremo che cosa ne esce. Quarto, la formazione, anche qua l'università è fondamentale, non dobbiamo dire che non serve laurearsi perché si trova lavoro senza la laurea, ecco io sono contrario a questo, bisogna forse creare un sistema di formazione tecnico-scientifica e professionale più serio e da ultimo, che è un mio cavallo di battaglia Stefano e ho chiuso, pensare che il lavoro del futuro non sarà, intanto non sarà solo nelle grandi imprese ma sarà nelle piccole. Ma soprattutto non sarà un lavoro dipendente e basta, ci sarà ancora il lavoro dipendente certamente, ma sarà soprattutto un lavoro intraprendente, quindi cari ragazzi tiratevi sulle maniche e pensate anche di aprire una vostra attività. Ecco, tra l'altro Roma ha proprio detto questo, perché tra le proposte che aveva fatto dice non solo lavoro dipendente ma anche iniziativa imprenditoriale e non bisogna neanche, diceva, agitare lo sporacchio del lavoro precario, perché da questo punto di vista i giovani occupati a tempo determinato in Italia sono la percentuale minore che in molti altri paesi invece dove sono molti di più. Per cui in effetti avere iniziativa. Un'iniziativa dove la peschiamo però, Walter? La peschiamo dentro noi stessi in primo luogo. Io l'ultimo mio libro si chiama Ricomincio da me. Vuol dire che dentro di noi dobbiamo trovare quelle risorse che un sistema un po' acciaccato come, e gerontocratico come il nostro non offre più. L'Italia ha perso un po' di spirito vitale, lo troverei soprattutto nelle piccole e medie imprese, ce ne sono tante, sono bellissime, funzionano perfettamente, non se ne parla molto anche sui giornali e sono l'ossatura del nostro paese. Ecco, credo che però non possiamo far predica ai giovani dicendo loro mettetevi in proprio, se non offriamo loro una rete di servizi che li aiutino a realizzare le proprie idee. Io credo che i giovani abbiano le idee, probabilmente in questo sistema si cerca di fargliele scappare. Perché 65.000 in 10 mesi sono scappati, no? Sono andati all'estero, dei nostri giovani, spesso laureati, Stefano. E questo è un problema, quando si va via dal proprio paese per il lavoro è un problema, e quando si hanno le idee, appunto come dici tu, e non si riescono a sviluppare. Parleremo proprio di questo oggi, perché cercheremo di dare anche delle idee, perché ci sono. E anche se molti, so già che scriveranno, Walter, cose tipo «Ah, vabbè, le parole sono facili, poi i fatti è sempre più difficile, no? Mettere in pratica». In questo momento io credo molto al potere delle parole. Dobbiamo cambiare vocabolario, dobbiamo cambiare le immagini che abbiamo in testa del lavoro. Ci sono delle esperienze, si chiamano Workers, per esempio, è una parola bella, non è una parola brutta, anche se in inglese. Andate a vedere il sito di WWWorkers e vedrete 50 storie di giovani che ce l'hanno fatta a mettersi in proprio con pochi soldi. Walter, noi abbiamo fatto tanta televisione insieme ai tempi di Italia 1, con dei programmi che tra l'altro avevano vinto anche dei premi. Parlavamo di lavoro almeno una volta alla settimana e tu eri a Corriere Lavoro in quel momento, il direttore, e io voglio chiederti se la televisione secondo te ha un ruolo in tutto questo, ha avuto un ruolo negli ultimi anni, visto che è molto cambiata, perché parliamo della televisione dagli anni 90 fino al 2000. Certo, ci sono state anche fatte delle esperienze di trasmissioni, appunto come la nostra di allora o come altre successive, penso all'articolo 1, per esempio, non solo Occupati e così via, penso anche a Job 24 su Radio 24, cioè in sostanza l'uso dei media per creare culture del lavoro, ma anche per fare servizio concreto di accompagnamento sul lavoro è per me fondamentale. Certi modelli culturali forse a cui tu ti riferisci sono negativi, io penso a trasmissioni francamente inutili. Io cerco di guardarla il meno possibile ormai la televisione, perché credo che sia ormai, come si dice ormai con un termine retorico e abusato, una cattiva maestra. Ecco, ti lascio con l'ultima domanda, che è la rete. E, insomma, in moltissimi paesi europei e non soltanto si inviano i curricula direttamente via internet, e molto spesso si ha una risposta, anche il giorno dopo l'abbiamo letto, l'abbiamo preso in considerazione, non ci interessa, eccetera. In Italia a che punto siamo, secondo te, con l'informatizzazione, diciamo così, del lavoro? Non abbiamo la banda larga, parliamoci chiaro. È ancora un problema, quindi. È un problema anche tecnico di accessi, da un lato, ma è anche un problema di, come dire, debacle dell'idea della Borsa Lavoro Nazionale, su cui la stessa riforma del lavoro aveva battuto e aveva previsto. Non abbiamo, a differenza di altri paesi, una Borsa Nazionale pubblica, quindi affidabile in questo senso. E abbiamo comunque molti portali privati dove però è facile perdersi, quindi il navigatore ha un problema di capire se le informazioni che legge sono affidabili oppure no. Una borsa pubblica l'avrebbe in qualche modo forse più garantito. Credo che quindi siamo a metà del guado anche qua, abbiamo bisogno di migliorare gli accessi, ma abbiamo bisogno anche di in qualche modo moralizzare una certa offerta di opportunità che è molto fasulla e sa solo di marketing. Ecco, cerchiamo di parlare allora, visto che ho capito che uno dei temi fondamentali è farlo, perché purtroppo non lo si fa nel modo giusto e gli spazi sono anche pochi. Cercheremo oggi di aprire anche alle possibilità in questo senso. Grazie Walter Passerini, davvero, buona domenica. Grazie a voi, ciao Stefano, alla prossima. Vi ricordo il suo sito, che è walterpasserini.com, e adesso parliamo invece di cose concrete, non che con Walter non si sia fatto, perché con Walter però si discuteva, e con Marco Cantamessa invece possiamo entrare nel dettaglio delle cose. Marco Cantamessa, il presidente dell'I3P, ci spiegherà lui che cos'è. Marco, buona domenica. Buona domenica a lei, buona domenica a tutti gli ascoltatori. Allora, presidente, abbiamo un incubatore di imprese innovative e siamo al Politecnico di Torino. Di cosa si tratta? Voi, tra l'altro, è tanti anni che operate in questo senso. Dal 99. Dal 99, si tratta anche di un'esperienza che ai tempi era pionieristica, adesso ovviamente si è consolidata e maturata. Noi fondamentalmente diamo agli aspiranti imprenditori due tipi di servizi, oltre ovviamente agli spazi per gli uffici, ma questa è una cosa minore. Diamo consulenza, per aiutare i giovani imprenditori a mettere a fuoco in che cosa consista il modello di business più appropriato per la loro idea di impresa, e intorno a questo poi li aiutiamo a costruire un business plan. Oltre a questo facciamo un'attività importante per aggregare intorno al business plan quei fattori, quelle risorse che consentiranno alle imprese di nascere. Quindi laddove il team imprenditoriale sia incompleto, aiutiamo ad attrarre manager o personale tecnico, li aiutiamo a fare fundraising sia nei confronti delle banche che degli investitori privati, e poi li aiutiamo in tutta l'attività relazionale che è fondamentale per un'impresa che è appena partita e probabilmente non ha ancora delle relazioni sufficienti. Ecco, e tra l'altro, Cantamessa, è curioso come sia arrivato un messaggio prima ancora della nostra chiacchierata, dove che dice proprio, è facile parlare, che dicevo io anche a Passerini prima, vedrai che scriveranno subito è facile parlare, infatti l'hanno scritto, di idee ne abbiamo molte, mentre gli incubatori sono chimere. Ecco, c'è questa opinione, almeno da parte di qualche ascoltatore. Ma guardi, lì è difficile esprimere un'opinione. Per noi contano i numeri, da noi arrivano più di 200 idee di impresa all'anno, di queste poi una cinquantina diventano effettivamente business plan, alcune noi non le accogliamo, altre si perdono per strada, e di questi 50 business plan noi riusciamo a costruire 15 imprese all'anno. Allora qui i motivi per cui è nato questo messaggio possono essere duplici: o è qualcuno che si è visto rifiutare da un incubatore, perché anche gli incubatori devono fare una selezione, è anche vero dall'altra parte che non tutti gli incubatori riescono a reggere i servizi che promettono. Diciamo che nel nostro mondo le economie di scala contano tantissimo. Ecco, cioè, ricordiamo, funzioniamo. Ecco, il messaggio in faccia prosegue dicendo: senza la firma di mamma e papà con un'ipoteca immobiliare, niente soldi e quindi niente impresa. Anche qua non è vero, nel senso che da noi per esempio abbiamo degli accordi con diverse banche in modo che le banche prestino dai 100.000 euro a salire, siamo arrivati anche a 500.000, sì, senza garanzie reali. I Confidi danno una mano, noi mettiamo la faccia, le banche hanno capito che non proponiamo operazioni a rischio eccessivo e l'accesso al debito in questo modo noi lo garantiamo. Ecco, questa è una bella notizia. Presidente, la lascio con una domanda. L'università, siccome appunto prima si discuteva del fatto che l'università, ma chissà se vale la pena farla o meno, e sicuramente per lei vale la pena, ma secondo lei che sensazione c'è nei giovani in questo momento nell'affrontare l'università? C'è ancora voglia oppure sta diminuendo questa voglia, questa speranza di trovare poi lavoro dopo il percorso universitario o no? C'è laurea e laurea. Diciamo che chi si laurea in ingegneria, io vengo un po' da quel mondo, ovviamente sì, tende ad avere maggiore ottimismo. Però devo dire che quello che pesa è una specie di diffusa sensazione che in fondo sarà molto molto difficile, e questo va anche un po' ad abbattere la stessa ambizione dei giovani. Noi stiamo tentando di spingere i giovani, per esempio, a non limitarsi a dire faccio un'impresa, ma faccio un'impresa che può e vuole crescere, perché se è una buona idea i soldi si troveranno, sia nelle banche e anche e soprattutto gli investitori privati che hanno investito l'anno scorso 2,7 milioni nelle nostre aziende. Ecco, questa è una bella prospettiva, in effetti un bel modo di pensare. Grazie Presidente. Marco Cantamessa, vi ricordo il sito dell'IP3 che è ip3.it. Buona domenica. Grazie Presidente. Fra l'altro sentiremo tra poco invece le esperienze personali, cioè di chi non so, ha sfruttato appunto l'incubatore per fare impresa, sentiremo delle idee anche nuove, cercheremo di capire proprio quali sono le possibilità concrete, e mi auguro di in questo senso poter dare una mano a tutti. Il riposo del guerriero. Mi spiace, sapete che nel riposo del guerriero parliamo di un argomento, si discute, si chiacchiera, insomma poi il tema è sempre voltato in positivo, no? Bisogna sempre essere propositivi nella vita, quindi non sono previste le chiamate degli ascoltatori, molti vorrebbero intervenire perché devo dire, insomma, il tema del lavoro chiaramente è un tema che riguarda assolutamente tutti. Allora, parliamo con Giampaolo Mancini. Ciao Giampaolo, buona domenica. Buongiorno. Ciao Giampaolo, quanti anni hai? innanzitutto, questa è la prima domanda. 35. Ecco, allora, tu saresti uno di quei giovani in via d'estinzione ormai. Sì. Allora, ti chiamiamo perché tu hai avuto invece un'esperienza proprio sfruttando l'incubatore del quale abbiamo parlato prima, sì. l'IP3P. Sì. Allora, tutto come è cominciato? Va, raccontaci un pochino la tua storia. È cominciato in maniera abbastanza particolare, perché io in verità ero andato all'incubatore a cercare un posto di lavoro, nel senso che avevo lavorato per una startup negli anni precedenti e mi ero reso conto che mi sarebbe piaciuto fare stare dall'altra parte, no? Cioè lavorare o per un venture capital o per appunto in un incubatore. E in verità lì chiacchierando hanno capito prima di me probabilmente che invece avevo le potenzialità per provare a fare l'imprenditore. E così mi sono lasciato convincere, non è stato molto difficile in verità perché era un germe che probabilmente incubavo da un po' di tempo, e così ho deciso di fare una mia startup. Allora aspetta, Giampaolo, andiamo un pochino indietro, dall'accento non credo che tu sia torinese. Io sono abruzzese. Ecco, ok, quindi il tuo percorso quindi qual è stato? Vorrei anche capire, non voglio farti una domanda che sembra troppo personale, però in fondo serve a farci capire anche, per esempio, il livello economico tuo e della tua famiglia, cioè quanto ti è costato tutto questo prima, quindi studiare, spostarti, non so se hai studiato all'Aquila oppure se hai studiato a Pescara. Sono andato a studiare a Torino. Quindi la storia è che sono andato a studiare lì, ho fatto i miei 5 anni di ingegneria informatica, e poi mi ero appassionato alla ricerca e così sono andato, ho fatto il ricercatore lì per 4 anni con il gruppo del professor Meo e il professor De Martin, mi sono occupato di tante cose, di streaming, multimediale, a un certo punto ho iniziato a occuparmi di wifi e da questa esperienza che era stato un progetto di ricerca industriale è nata una startup che si è chiamata Wynext, che a sua volta è stata incubata nell'incubatore e poi invece un paio di anni fa io volevo provare a fare qualcos'altro, quindi un po' ho iniziato a cercare, un po' ho iniziato a pensare di fare l'imprenditore e quindi poi ho fatto trampolino nella mia società che di nuovo ho deciso di incubare all'incubatore. Ecco, quanto ti è costato tutto questo, Giampaolo? Quanto sei stato aiutato invece? Sono stato aiutato tantissimo dai miei genitori, ovviamente, per tutti i 5 anni di università. Sì. Poi devo dire che sono stato abbastanza fortunato perché subito dopo l'università sono riuscito a trovare questi assegni di ricerca lì al Politecnico e per fortuna non ci sono stati periodi in cui non sono stato senza lavoro. Tra l'assegno di ricerca c'è stato un periodo abbastanza lungo che è stato un periodo in cui sono stato senza stipendio, che è stato il periodo in cui il primo anno e mezzo di trampolin in cui tutti i soldi che guadagnavamo li reinvestiamo nella società, quindi è stato un periodo che grazie anche al supporto della famiglia, perché questa è una cosa che non di mia moglie, voglio dire, del lavoro di mia moglie, è una cosa che spesso non si dice quando si parla di startup, ma uno dei finanziatori principali è la famiglia poi alla fine. Ecco, te l'ho chiesto perché credo che molti ascoltatori vogliano proprio sapere questo, no? Beh, sì. È vero, prima che Cantamessa il presidente ha detto abbiamo anche la possibilità di sovvenzionare delle imprese senza avere soldi alle spalle, senza garanzie. Esatto. Però volevo capire se tu invece ne avevi o meno, mi pare di capire di sì. Noi i primi tempi abbiamo deciso di non, diciamo, di non abbiamo voluto provare a fare quello che in gergo si chiama bootstrap, no? Quindi provare a far partire la società finanziandole completamente con la sua attività commerciale. E quindi anche se c'era questa opportunità da parte dell'incubatore di prendere questi finanziamenti senza garanzia, abbiamo preferito provare ad andare avanti con le nostre gambe. Forze, sì, certo. Sì, esatto. E questo ovviamente è stato possibile solo per il fatto che sia io che il mio socio Francesco Varano, l'altro fondatore di Trampolin, avevamo alle spalle comunque 2 famiglie che hanno potuto supportarci in questo. Ecco, adesso poi la legge che ha liberalizzato la possibilità di utilizzare la rete wifi nei luoghi pubblici credo che vi abbia molto favorito in questo senso. Ha molto favorito noi, ha molto favorito soprattutto tutti quegli esercizi commerciali e pubblici che vogliono mettere a disposizione il wifi dei loro clienti, perché semplifica per loro moltissimo la gestione della normativa che comunque rimane ma è più gestibile adesso. Chiaro, quindi insomma avremo anche noi come consumatori e avventori la possibilità di entrare nei locali e finalmente poter navigare gratuitamente senza dover impazzire. Giampaolo, ovviamente per te questa è stata un'esperienza molto positiva, questo è ovvio. È un'esperienza meravigliosa. C'è un consiglio che vuoi dare? Ma bisogna buttarsi, Assolutamente, io ho moltissima paura all'inizio, ricordo, lo racconto sempre, mi invitano abbastanza spesso negli incontri con i ragazzi, no, a parlare della mia esperienza. Io racconto sempre che mi ricordo perfettamente il giorno in cui ho spostato la mia postazione di lavoro che avevo a casa in camera di mia figlia che aveva pochi mesi. Ho spostato il mio monitor, la mia tastiera nello scatolone per poi portarlo nell'ufficio all'incubatore, e quel giorno lì, mentre mettevo la roba nello scatolone, pensavo: chissà fra quanti mesi sarò a fare il lavoro inverso, a prenderlo dallo scatolone e a metterlo sulla scrivania, in casa, perché, sì, certo. perché lì non è andata. Invece, per fortuna, questo momento non è ancora arrivato, però veramente ricordo quel momento lì come un momento, non lo so, è il momento in cui ti butti, no? Certo, no, beh, chiaro, è un salto nel vuoto, tra virgolette, vuoto. E bisogna cercare di, insomma, di non cadere male, ma tu a quanto pare sei caduto bene. Allora, bisogna avere tanto coraggio e bisogna avere all'incubatore il nostro tutor, che si chiama Massimiliano Ciaglio, dice sempre, è un aspetto fondamentale che ha colto negli incubatori, negli imprenditori. Gli imprenditori sono delle persone ossessionate, no? Bisogna essere ossessionate da raggiungere il proprio obiettivo, che non so, può essere vendere 10.000 hotspot, vedere installato il proprio software su 1 milione di PC e così. Bisogna essere coraggiosi e testardi, andare avanti, prendere tante porte in faccia. La questione, noi parliamo spesso con investitori, anche con altri, con persone di esperienza, che ci dicono: fidatevi, questo sono dei consigli che vengono da persone che hanno 25 anni di esperienza. La verità, come dice il mio socio, è che noi siamo 50 anni avanti, e quindi quei 25 anni di esperienza, quando si fanno le start-up e le cose innovative, contano ben poco, perché il mondo in cui ci muoviamo cambia a una velocità incredibile. E quindi spesso non lo sappiamo vedere, infatti questo è un altro problema. Esatto. In effetti, Giampaolo, ti ringrazio molto, insomma, complimenti. Ovviamente voglio ricordare anche il tuo sito, che è trampolineup.com, scritto trampolineup.com, perché sennò è difficile sapere come è scritto. Grazie Giampaolo, complimenti. Ciao. Ancora buona domenica. Io volevo ringraziare gli ascoltatori, stanno arrivando veramente molti messaggi. Qualcuno anche particolarmente importante, perché ha scritto anche il fondatore dell'iCube in Puglia, e ha scritto un lungo messaggio. Adesso riordino un pochino le idee e poi vi prometto che rileggo, semplicemente perché ascoltando gli ospiti al telefono sono attento a quello che dicono loro e faccio quindi più fatica a leggere i vostri messaggi. Lo farò nel break, quindi continuate a farlo se volete. 349-238-6666. Andrea Fusiello, buona domenica. Ciao Andrea. Ciao, buongiorno. Allora, Andrea invece è il direttore del Master Universitario in Computer Games Development dell'Università degli Studi di Verona, quindi parliamo di videogiochi. Tra l'altro, proprio qualche giorno fa, era venerdì scorso, l'altro giorno quindi, è uscito un articolo sul Corriere Economia, dove si dice che l'attività nel mondo dei videogiochi offre oltre 500 nuove opportunità. Ci sono Ubisoft che sta cercando in questo momento, e tra l'altro anche figure molto diverse. Poi c'è la Double Jungle che sta cercando, la Milestone, per cui insomma in quest'ambito, quello dei videogiochi, si stanno creando molte opportunità. È da tempo che è così, ma negli ultimi anni c'è molta più opportunità, perché ci sono molti più videogiochi per i telefonini, per esempio, no Andrea? Sì, è vero, adesso con il digital delivery e quindi la possibilità di... Ecco, io ho detto i telefonini per essere più chiaro, perché digital delivery, i nostri ascoltatori... Sì, caricare giochi da piattaforme web che consentono di pagare sul sito e scaricare il gioco. Sono giochi casual, quindi giochi che richiedono di essere giocati per un numero limitato di ore, e quindi anche l'impegno che c'è dietro per crearli è limitato, e questo apre la possibilità a piccole software house di accedere ad un mercato che altrimenti fino a qualche tempo fa era inaccessibile. Certo, già spieghiamo come funziona un videogioco costruito in un certo modo per console, per esempio, per PC, anche se adesso i videogiochi per PC cominciano a essere meno, ma questa è un'altra discussione che non riguarda la puntata certo di oggi. E dicevo, i videogiochi costruiti per console richiedono molto tempo per essere programmati, pensati, ideati, soprattutto quelli di oggi, che sono come dei veri e propri film. E quindi il costo è molto alto, il costo di produzione è molto alto, quindi bisogna fare molti numeri, e anche i costi del videogioco poi al bancone è alto, perché si parla di dai 39 euro fino ai 69, più o meno, insomma, questo è il range. Invece i giochini, chiamiamoli così, permettetevi questo termine, ma insomma io che sono un grande appassionato lo dico con amore, che possiamo scaricare su un telefonino o su una piattaforma portatile, sono meno costosi dal punto di vista della produzione, e sono anche molto meno costosi da parte di noi acquirenti, perché parliamo di giochi che costano 1 euro, 2, 4 euro, no? Quello è il prezzo. Sì. Ecco. Per cui tutti, diciamo, si possono provare a programmarli, insomma, a inventarseli e poi produrli, appunto, e venderli. Ma che tipo di specificità ci vogliono? Cioè, quale tipo di conoscenza e di percorso di studi ci vuole? Beh, innanzitutto bisogna essere degli informatici, aver studiato informatica, quindi conoscere l'informatica, i linguaggi di programmazione, però questo non basta. Abbiamo notato come appunto i nostri laureati non fossero già, come dire, pronti per andare in questo mercato del lavoro. Allora da lì è nata l'idea del nostro master, che sopra a una preparazione di base, che appunto è quella dell'informatico, aggiunge delle specialità legate proprio allo sviluppo dei videogiochi. Lo sviluppo dei videogiochi è un'attività interdisciplinare, quindi richiede competenze molto, molto vaste, diciamo in orizzontale, e da un lato, e dall'altro invece in verticale, diciamo, richiede una conoscenza approfondita del linguaggio di programmazione che si usa, ad esempio può essere il C++, insomma, che è quello che, per quanto riguarda i giochi, quelli importanti, quelli AAA, diciamo, è quello. Il linguaggio di programmazione, lo specifichiamo per gli ascoltatori. E Andrea, rimani con me, ci sono aggiornamenti sul traffico, poi ho altre domande da farti, fra le quali anche i costi, perché poi affrontare un master, la durata, vediamo un po' quanto impegna da diversi punti di vista. Il riposo del guerriero. È arrivato un messaggio, immaginavo sarebbe arrivato prima o poi, infatti così oggi potrei fare il mentalista, cioè quello che prevede, così. Di solito i mentalisti usano un trucco, io senza quello avrei indovinato i messaggi, alcuni dei messaggi che sarebbero arrivati. Uno è questo, ma ringrazio l'anonimo che l'ha scritto, dice: vi sto ascoltando come sempre, e come sempre, attenzione, noto che parlate solo di laureati, come se gli altri fossero di serie B. Allora è vero, abbiamo parlato di persone con la laurea adesso. Il programma è lungo e ti garantisco che non è così assolutamente. Anzi, leggerò un messaggio, un altro che è arrivato, di Beppe, che dice: oggi il modello vincente non è fermarsi sul lavoro, secondo lui, ma nel dopolavoro, bar, birrerie, discoteche, fino a 60 anni, ecco, per chi è disinnamorato al lavoro, cioè nel senso andare a fare cameriere, preparare le birre, eccetera, è comunque un mestiere, assolutamente sì. E non parliamo soltanto di laureati, l'abbiamo fatto fino adesso, ma dopo apriamo le porte a tutti, assolutamente, perché è necessario e doverosissimo farlo, e io sono il primo che lo vuole assolutamente fare. Continuo a parlare con Andrea Fusiello, scusami Andrea, ma era una parentesi. Allora, stiamo parlando del Master Universitario in Computer Games Development, l'Università degli Studi di Verona. Andrea, quanto costa affrontare questo Master? Il Master ha un costo non irrisorio, costa 4.000 euro l'iscrizione. Quanto dura? Dura un anno e sono 60 crediti formativi universitari, quindi dura, è la durata di un anno universitario a tutti gli effetti. Facciamo una proiezione nel futuro. Secondo te, immagino di sì comunque, le opportunità saranno sempre più ampie? Questa domanda ci vorrebbe la sfera di cristallo. Proviamoci. Più che una previsione, posso formulare un auspicio. Cioè, noi siamo partiti con questo master pensando che, diciamo, la richiesta che abbiamo visto essere presente sarà sostenuta anche nel futuro e magari anche in crescita. Le premesse ci sono tutte, diciamo, adesso siamo alla seconda edizione, insomma, da un anno all'altro si è visto molto fermento in questa, nell'industria del videogame italiana, quindi le premesse ci sono tutte. Naturalmente, come dire, come tu sai bene, è un settore così in rapida crescita e così in rapida espansione che è difficile fare previsioni, ma ripeto, sul breve in questi ultimi due anni si è visto molto fermento. Beh, sarà così comunque penso anche nel futuro. Fra l'altro io volevo anche ricordare che non è che ci sia necessità soltanto dei programmatori, però per esempio dei musicisti che possono tranquillamente non laurearsi ed essere semplicemente bravi a suonare o a scrivere musica. I grafici e altro, quindi lì ci vuole del talento che va al di là dello studio. E ci sono anche chi scrive le storie, per esempio, perché ci sono giochi che richiedono la scrittura di una storia, i dialoghi, i doppiatori per i giochi più importanti che devono ovviamente doppiare i personaggi, per cui si aprono anche tante altre possibilità al di là di chi affronta uno studio universitario e di tipo scientifico come quelli di cui stiamo discutendo. Il videogioco per esempio offre veramente opportunità a tutti. E, Andrea, io ti ringrazio, adesso poi sentiremo un tuo studente, vedremo un po' che cosa pensa di riuscire a fare nel futuro. Grazie Andrea Fusiello. Grazie a voi. Buona domenica. Ciao Jacopo. Ciao, buona domenica. Ciao. Jacopo Mussolo, tu stai frequentando il master o hai finito? Quasi. No, io ho finito. Infatti, ho fatto la prima edizione del master. E quindi che cosa stai facendo adesso? Sei disoccupato o no? No, adesso lavoro in Ubisoft. Ah, ok, perfetto. E in quanto tempo hai trovato finito il master? Subito dopo, a dire il vero, direttamente con lo stage organizzato dal master. Sono venuti in Ubisoft e finito lo stage di un solo mese mi hanno tenuto subito. Allora, visto che tu lavori in un'azienda molto grande, Ubisoft è un'azienda canadese e ha fatto dei titoli, continua a concepire titoli di straordinario successo, parliamo di titoli importanti fra l'altro, quindi non di giochi per i telefonini anche, ma quelle sono altre, sono spin-off, chiamiamoli così, ma giochi per console, quindi giochi costosi per gli acquirenti che li pagano dai 39 ai 69 euro, ma anche per voi che li dovete produrre. Assassin's Creed, così parlo di uno dei titoli più famosi in assoluto. Jacopo, ci racconti un po' quali figure ci sono? Io ne citavo qualcuna prima, magari me ne sono dimenticato. Ma io in realtà lavoro a contatto con qualsiasi tipo di figura, perché c'è l'animatore, c'è il grafico 2D, c'è il grafico 3D, c'è il musicista, c'è il programmatore del reparto audio, davvero qualsiasi cosa. Conta che io sono specializzato in intelligenza artificiale. Sì. Ci sono altri che sono specializzati in altre cose, quindi anche nel nostro insieme di programmatori siamo tutti specializzati su qualcosa di diverso. Allora, lo specializzato in intelligenza artificiale in un videogioco, che cosa fa? Cioè deve cercare di fare in modo che i personaggi capiscano cosa vuol fare chi sta giocando. Esattamente questo. Anche se... Sì, c'è il game designer, è arrivato un game designer a dirmi che ci sono anche game designer. L'avevamo citato però il game designer. Sì, però loro stanno ascoltando. Sì, perché la domenica si lavora. Come sempre. Senti, appunto, c'è possibilità anche di far lavorare chi laureato non è, quindi? Sicuramente, noi abbiamo qualche programmatore che non è laureato e sono davvero bravi, quindi... Insomma, la laurea non è tutto, ecco, quello che poi devi fare è anche tanto provare a casa quello che vuoi realizzare, quindi fare demo di giochi, studiare anche tanto in solitario. In realtà anche il master ha un metodo di studio che poi tu devi proseguire nella tua vita di tutti i giorni. Le lezioni del master bastano, sì, per darti un'infarinatura, però poi se vuoi davvero farlo devi metterti tu i tuoi pomeriggi. Ecco, tra l'altro io, parlo per esperienza personale, in tempi non sospetti ho fatto anche il programmatore per più di un anno io però avevo imparato assolutamente da solo, non ho frequentato niente, mi sono messo lì a studiare libri, a provare, come dici tu, a programmare, ho programmato dei giochini, delle cose semplici ovviamente, e con quelle poi mi proponevo. Diciamo che sicuramente l'università ti dà delle basi un po' più solide su certo. Cui puoi costruire la tua carriera. Però la possibilità c'è ovviamente, per cui insomma ci vuole il talento fondamentalmente e la voglia, la volontà. Ci vuole tanta voglia e tanto tempo da dedicarci e ce la si fa. Quanti anni hai, Jacopo? 28, mi pare. 28, vabbè, 27. Okay. Allora, insomma, complimenti e sono anche contento che sei in un'azienda così importante, darà indubbiamente soddisfazione. Buona domenica, ciao. Grazie, Jacopo. Ciao. Allora, la seconda parte del Riposo del Guerriero sarà dedicata ovviamente sempre al lavoro, quello dedicato ai giovani di cui tanto si parla, questa specie in via di estinzione, ma soprattutto a chi la laurea non ce l'ha, così siete tutti contenti. Il Riposo del Guerriero. Le 11:06 ancora buona domenica da Stefano Gallarini. Intanto il numero verde ancora, ve lo ricordo, le 11:30 giochiamo col mistero in 24 minuti, per voi fino a 1000 euro da spendere su libreriarizzoli.it 800 24 00 24. Oggi vi vedo particolarmente pronti a scrivere i messaggi, ne stanno arrivando moltissimi ancora e adesso ne leggo qualcuno. Uno era sul prezzo dei giochi. Scrive: comunque volevo far notare che i giochi per console per PC non sono costosi. Se ci pensate, a 45 euro hai di norma un gioco che ti permette anche di giocare su internet. Margherita mi ha guardato con due occhi strabuzzati quando ho detto 45 euro, perché 45 euro non è che siamo proprio pochi, diciamo che è un impegno economico anche 45 euro, perché un gioco compri almeno un gioco al mese, fondamentalmente, almeno dico, per cui è comunque un impegno economico rispetto ai giochi per telefonino che costano 1 euro, 2 euro, al massimo 4 euro. Capisci che la differenza è una 10, per cui ecco perché ho detto che sono costosi. Insomma, dipende. Se guadagni 800 euro al mese e devi pagare l'affitto, un gioco da 45 euro o più, perdoni, ma incide, per cui io la vedo così. Insomma, poi non lo giustifico quel costo, quel prezzo, perché per produrlo c'è un costo pazzesco, bisogna rientrare di quei costi, quindi concordo sul prezzo, però non posso negare che non sia proprio basso. Poi il fondatore di iCube in Puglia scrive un messaggio. Dice: allora, io sono il fondatore di iCube in Puglia, è un incubatore, abbiamo parlato di 3P prima, che è un incubatore torinese. Abbiamo bisogno di una location, dice, siamo disponibili a dare assistenza e consulti gratis. Il nostro incubatore è partito sulla falsa riga di IP3 e completato insieme alla BIC Lazio di Roma. Non siamo aiutati, cerchiamo un aiuto, per cortesia, se qualcuno sta ascoltando e volesse darci un aiuto, che si faccia vivo. Il sito è www.i-cube.it. ecco, quindi speriamo che arrivi anche la possibilità di avere un aiuto per IP Cube in Puglia. Servirà ovviamente a chi vuole sfruttare questa possibilità per trovare lavoro. Poi c'è anche un altro incubatore, si chiama H-Farm ed è un incubatore in Veneto, investe in giovanissimi, età media 25 anni, ci lavorano circa 200 ragazzi e ne sta cercando altri. Questa è Ilaria che ci comunica questo. Poi c'era Maria che dice: ho 3 figli in gambissima ma diplomati e stanno scappando all'estero per disperazione. Maria era quella che aveva detto: parlate solo di laureati. Antonio in Corvaglia, ciao, buongiorno. Ciao Stefano, buongiorno agli ascoltatori. Allora Antonio, lo stiamo ascoltando, l'abbiamo già sentito tantissime volte, intanto lo voglio ricordare agli ascoltatori, è l'autore insieme a Alessandro Rimassa di Generazione 1000 Euro, questo libro che ebbe grandissimo successo, è diventato anche un film tradotto in 7 lingue e che raccontava di questa generazione che portava a casa 1000 euro al mese e tutte le sue difficoltà. Hanno pubblicato, sempre Antonio Incorvaglia e Alessandro Rimassa, qualche anno fa, credo 2 anni fa, un libro chiamato Jobbing, guida alle 100 professioni più nuove e più richieste. Io ti ho coinvolto, malgrado il libro non sia nuovissimo, perché credo che in realtà il contenuto sia ancora attualissimo. Sì, siamo stati abbastanza lungimiranti, soprattutto sull'identificazione delle professioni che in qualche modo costituivano un trend che noi avevamo identificato provenire soprattutto dai paesi anglosassoni e che oggi sono ancora un bacino di opportunità per i giovani intraprendenti, appunto, come si diceva anche prima con Walter. Ecco, Passerini. Infatti Passerini diceva proprio questo: ci vuole intraprendenza e un po' di coraggio. Poi anche esatto. Chi ci è riuscito ha detto: io all'inizio ho fatto un salto nel buio, ho avuto paura quando ho spostato il PC da casa mia all'ufficio, pensavo di dover tornare poi indietro, invece non è successo. Antonio, ci vuoi raccontare qualcuno di questi lavori che non richiedano per cortesia una laurea? Grazie. Certo, allora, tutti i servizi dedicati alla persona, che hanno anche magari etichette abbastanza esotiche come il personal trainer, il personal shopper, il wedding planner, sono tutte professioni che vengono in qualche modo praticate più facendo capo sulle proprie competenze personali che non sulla formazione accademica. È vero che magari può far ridere pensare che il wedding planner o il personal shopper siano un mestiere, ma in realtà poi oggi ci sono addirittura intere trasmissioni televisive dedicate a chi fa wedding planner o personal shopper, cioè chi aiuta dei clienti che sono singoli e in realtà si presuppone di fascia economica medio-alta a spendere i propri soldi, quindi a indovinare acquisti sia nel campo dell'abbigliamento o nel campo dell'elettronica, della tecnologia, oppure li accompagnano nel corso di attività particolari che possono essere estemporanee, quindi di circostanza come il matrimonio, o addirittura oggi ci sono anche persone che si occupano dell'aspetto opposto, cioè del divorzio. La prima persona che ha pensato oggi cosa faccio? Mi invento un lavoro che aiuta la gente a spendere i propri soldi, probabilmente è stata presa per pazza. Ecco, questa è un po' la direzione, non è detto che tutti debbano fare ovviamente il personal shopper o il wedding planner, ma l'approccio al mondo del lavoro probabilmente oggi anche per chi non ha una laurea è esattamente questo. Ecco, ma uno come fa? Per esempio io vedo il team leader, no? Il team leader ha il compito di motivare uno staff o una squadra di lavoro. Ci sono aziende che cercano i team leader, visto che non richiedono una conoscenza specifica, una laurea in particolare, ma semplicemente del talento personale, oppure uno deve andare in un'azienda e dire io sono un team leader, avete bisogno di me, punto di no. Cioè come si fa? Ecco, qui c'è un altro piccolo cortocircuito del mondo del lavoro in Italia, cioè che non si conoscono le opportunità che magari molte aziende offrono perché spesso non sono così trasparenti. E quindi non si immagina nemmeno che possano esserci. Il team leader di fatto è una figura che oggi molte aziende cercano perché l'aspetto motivazionale del lavoro, soprattutto se tu ci pensi in un periodo di crisi in cui gli umori tendono a precipitare gradualmente sotto le scarpe, in cui si tende a non essere mai soddisfatti della propria condizione e non si sa come migliorarla, Una figura invece carismatica che appunto al di là della formazione ma che sappia fare della propria personalità e della capacità anche di relazionarsi con gli altri la propria forza è logicamente molto ben accetta e molto ricercata da aziende, soprattutto anche nel campo della comunicazione, poi che è quello che conosco meglio, dove questo genere di trasversalità e di capacità sono sicuramente necessarie. Sei laureato tu, Antonio? Io sono laureato in architettura, ma faccio un lavoro che c'entra solo relativamente con la mia formazione, perché lavoro come project manager in un'azienda di comunicazione e di fatto, ecco, forse costituisco un modello di questo approccio perché io ho sfruttato la mia laurea non tanto in maniera didascalica, quindi non seguendo la professione specifica dell'architetto, ma imparando un metodo che è quello della progettazione, che poi può essere applicato alla progettazione di una brochure o di un grattacielo di 20.000 piani. A me interessava di più la progettazione di media, di contenuti sui media, e ho cercato di propormi in questo modo alle aziende e devo dire ha funzionato. Ecco Antonio, senti, molte professioni sono legate ad aziende, per cui esistono in posti dove ci sono delle aziende. Sì. In posti più difficili, parlo per esempio del centro e del sud Italia, dove le opportunità anche dal punto di vista delle aziende sono meno. E quindi anche questi lavori satellite, chiamiamoli così, insomma, non ci sono, no? Obiettivamente sono molto più difficili da trovare, ovvio, bisogna spostarsi. Sì, è vero fino a un certo punto. Mi piace. Mi piace. Perché da un certo punto di vista ci sono tante professioni che oggi possono essere svolte attraverso la rete, quindi stando comodamente in qualsiasi altra parte del mondo e connettendosi attraverso internet, quindi in qualche modo rendono molto meno forte l'esigenza di una localizzazione. Dall'altra parte, perché sempre di più le agenzie le agenzie e le aziende si rivolgono invece a figure flessibili e trasversali, non necessariamente all'interno del proprio organico, quindi la figura del freelance, anche attraverso, non so, i contratti a progetto, che pure tutto sommato sono una forma contrattuale molto bistrattata perché abusata dalle aziende, però un contratto a progetto consente di gestirsi più collaborazioni, di ragionare un po' come un libero professionista. E anche da questo punto di vista la localizzazione, la permanenza all'interno dell'azienda non è strettamente necessaria, quindi vengono abbattute in qualche modo quelle barriere di lavoro dipendente in loco, e anche da questo punto di vista, sapendo che si può ragionare in questi termini, ci si può organizzare di conseguenza. Ecco, ho ricevuto un sms da pochissimo, ha fatto venire la pelle d'oca, ne voglio discutere con te, rimani con me dopo gli aggiornamenti sul traffico. Il riposo del guerriero. Allora Antonio, ecco il messaggio che mi ha fatto venire la pelle d'oca. Dice: siamo seri. Mi vedo la ragazza presentare ai genitori del suo futuro marito dicendo: mamma, papà, lui sarà il mio marito e nella vita farà il personal shopper. Dai, su! Beh, è sicuramente una reazione legittima e giustificabile, la capisco anche perché si tratta di figure professionali che si stanno diffondendo e ramificando soprattutto nelle grandi metropoli, però richiedono un salto di qualità, un salto della quaglia a livello mentale e culturale. Ma vale anche, come dire, voglio fare l'illusionista? Voglio fare il cabarettista. E guarda, la risposta è la stessa, no? Cioè, esatto, nel senso, come una volta si diceva l'attore, DJ, no? O il DJ o l'attore. Ah, ma dove vai? Ma cosa fai? Che lavoro è? No? Sì, esatto. A parte che se ci sono delle prospettive e se ci sono delle opportunità, soprattutto perché non seguirle, perché non sfruttarle? Poi sono professioni figlie di una mentalità anglosassone che da noi sta cominciando adesso a prendere piede, ma ripeto, è l'approccio quello che conta, non è tanto l'etichetta. Chiaro, cioè, però forse bisognerebbe proprio cominciare a cambiare un po' il modo di pensare, e invece dai messaggio che come questo rappresenta molti messaggi, cioè lo prendo come esempio perché immagino che molti abbiano questa idea, ma se non cominciamo a pensare le cose in un modo un po' diverso sarà poi difficile trovare delle opportunità. Credo. Sicuramente, anche perché l'università e in generale il mondo della formazione non aiuta in questo senso, perché comunque anche laureandosi si ha un po' sempre in testa il solito pacchetto di 4-5 professioni tradizionali, quindi anche in questo è quasi penalizzante la formazione accademica rispetto al non avercela. E poi dall'altra parte, perché la globalizzazione comunque non è solamente uno spauracchio da combattere, ma apre un sacco di opportunità e di scorciatoie, di scappatoie che noi sostanzialmente non abbiamo e che quindi è lecito vedere in maniera positiva. Infatti la rete forse in questo senso può anche aiutarci, ma come diceva Walter Passerini proprio inizio puntata, bisogna buttarsi nelle cose, perché altrimenti, se ancora pensiamo di riuscire a trovare il posto fisso in banca, così per usare lo stereotipo, forse non stiamo andando nella direzione giusta. Io ti ringrazio Antonio, voglio ricordare che ha scritto Antonio Incorvaglia insieme a Alessandro Rimassa, Jobbing, guida le 100 professioni più nuove e più richieste. Buona domenica Antonio, grazie. Ciao, ciao. Stefano, anche a voi. Ciao. Fables, ciao, buongiorno. Ciao Stefano. Mi spiace, buongiorno. Che il vostro Magilla Gorilla, insomma, non è stato candidato sindaco virtuale, vediamo se riusciamo a candidarsi per il ballottaggio di Milano. Venite qui, certo, va bene. No, a proposito di quella discussione che stai facendo, sì, pensavo anche di quando mia madre ha detto che facevo guerriglia marketing. Ecco, infatti io voglio capire, quando tua mamma hai detto: mamma, vado a fare il guerriglia marketing, lei cosa è svenuta? Cos'è che ha fatto? È uscita? Si è spaventata, tant'è che lei anche ha paura. Sì, ha paura anche del nome del mio blog, perché pensa che sia troppo forte, perché c'è la parola guerriglia di mezzo. E ti vedeva però con la mimetica. Dicendo che faccio il grafico. Allora ci sei un po' riuscito, Non ti dico io quando gli ho detto che volevo fare tipo l'attore, mio fratello è il cabarettista, ma capisci? Però insomma, vabbè, in realtà poi bisogna avere un po' coraggio. Ecco, tu sei buttato ad esempio nel guerriglia marketing in un momento in cui la gente dice: e che cos'è questa cosa? Sì, esattamente, che altro è, ecco, è difficile riuscire a spiegare che nella pubblicità esistono anche altri settori rispetto ai soliti, quelli che conosciamo, insomma, o anche nuovi mezzi, insomma. Chi conosce la pubblicità pensa sempre che si faccia magari attraverso spot pubblicitari piuttosto che affissioni in strada o stampa, invece come vediamo ogni domenica, insomma, ci sono molte forme differenti per comunicare, ecco. Senti, allora appunto, esatto, un modo proprio la rete, anche per conoscere i mestieri che esistono in giro per il mondo, ma anche per proporsi, immagino. Ah, esattamente, guarda, io ti parlo di un caso di addirittura 4 anni fa, che però secondo me a distanza di anni è ancora molto interessante, che era nato per prima, diciamo, della crescita di una nuova agenzia di comunicazione. Il tutto si presenta con un video datato 6 settembre del 2007, in cui c'è una persona che si presenta così: il mio nome è H725, vengo dal 2059, faccio parte di un gruppo denominato Save the Text, Save the Words, e sono qui perché tra 21 giorni arriverà Brightly, che sostituirà tutte quante le parole con video e immagini. Quindi c'è questa persona che si aggira prima per Venezia, poi per Firenze, ha praticamente una specie di cartello davanti, ogni volta che lo posiziona di fronte a delle scritte, queste vengono sostituite da video o immagini. Naturalmente nasce un po' di curiosità, si inizia più che altro a chiedere del perché questa persona sia venuta per cercare di salvarci da questa cosa. Una persona del futuro, fra l'altro, tornata nel passato per... Esatto, tornata nel passato per salvare, diciamo, l'umanità prima che le immagini vadano a sostituire il testo. Sì. Quindi inizia a postare nuove foto, nuovi video in cui lui comunque sia gira altre città. Arrivano anche delle risposte da parte di alcuni utenti di YouTube stesso, che insomma danno la loro versione dei fatti, fino a che insomma lui annuncia l'arrivo del 27 settembre in cui sarebbe arrivato questo Brightly. Poi in realtà Brightly altro non era che, come ti ho detto prima, un'agenzia di comunicazione specializzata più che altro nella produzione video o di materiali, ecco, digitali. Ecco, quindi sono un modo per proporsi nuovo, ovviamente, sì, per fare in no. modo di... Ecco, qualcuno che si è inventato invece un lavoro completamente diverso da quelli che si possono pensare, esiste, è esistito? Beh, sicuramente, a rete sì, ma ti viene in mente qualcosa? Qualche lavoro non esistente che è stato inventato attraverso la rete? Sì. Ma guarda, esempio. Io ricordo, più che un lavoro, ricordo un genio che forse ricorderai anche tu, che era Million Dollar Page. Ed era un ragazzo che aveva suddiviso, immagina una home page di un sito, semplicissima, suddivisa in 1 milione di pixel. Sì. Lui che cosa ha fatto? Ha venduto ad $1 ogni singolo pixel per pubblicità, come se fosse ogni singolo pixel un banner pubblicitario, vendendolo alle aziende. Quindi, ma c'è riuscito poi? C'è riuscito, è diventato ricco, ha fatto $1 milioni. Ecco, chiaramente, adesso, ecco, questo vale una volta sola, perché vale copiare, certo. Lui ci ha riprovato, adesso ultimamente ha fatto una specie di libro dove tu con la tua foto puoi partecipare al più grande libro fotografico mai esistente e decidere, a seconda di quanto paghi, se stare nella prima in copertina, se stare nella prima o nella seconda. Ma è meno forte però l'idea. Sì, sono d'accordissimo. È come Rubik, quando inventò il cubo fu una rivoluzione, ancora oggi si gioca al cubo di Rubik, e poi ha creato anche altri puzzle, ma nessuno ha avuto successo con il suo cubo. Hai ragione. No. Senti, tu che così ti sei inventato un po' questo mestiere, inventato tra virgolette, no? Però a un certo punto hai deciso di metterti insieme ad altre persone, aprire appunto un'agenzia che si occupa di guerriglia marketing. Tra l'altro è una notizia piuttosto fresca, non è una cosa di tanto tempo fa. Hai cominciato con il blog, il più seguito sicuramente in Italia per quanto riguarda il guerriglia marketing. Quanto è difficile vivere, punto di domanda? Ma sì, ecco, quello che bisogna fare è inventarsi sicuramente ogni volta qualcosa di nuovo, nel senso che anche il mestiere che facciamo noi non è mai scontato, non è mai definito, nel senso che ogni giorno poi dobbiamo inventarci nuove cose sia da proporre ma anche da studiare per cercare di essere sempre innovativi e, come si dice, come direbbero i giornalisti, sul pezzo, insomma. Ecco, cioè portare a casa lo stipendio, questa è la domanda, è difficile? Sì, è sicuramente complicato, ecco. Poi è chiaro che specialmente insomma, in Italia magari a maggior ragione, visto che poi c'è sempre un socio in più che non lavora ma pretende dei soldi poi a fine anno, insomma. Quindi ok, al di là di questo sì, è sicuramente complicato, però ecco, dopo io ho avuto la fortuna comunque sia di lavorare con persone con cui lavoravo già da tempo e con cui avevo comunque sia un rapporto, insomma ci capivamo molto anche sul lavoro, quindi dopo un anno e mezzo stiamo cercando di crescere e speriamo di farlo anche nel quello che voglio dire io è che poi bisogna impegnarsi, lavorare, non ci sono orari, cioè in generale poi ci vuole veramente la passione, perché altrimenti non si riesce e diventa indubbiamente più difficile. Grazie Fables, insomma complimenti e buona domenica. Grazie mille, ciao, buona domenica. Grazie. Ho una domanda ovviamente anche per il nostro gastronauta. Zanini, produzione Porte Hotel Tagliafuoco. Sogni d'oro, Zanini Porte. Vi presenta il gastronauta. Ciao Davide, buongiorno. A domanda risponde. Allora, no, perché insomma oggi parliamo appunto di lavori, questi giovani che sono una specie in via di estinzione, molti non vogliono né studiare né cercare opportunità di lavoro perché hanno perso le speranze, quindi stiamo cercando di capire invece dove sono le opportunità e se ci sono, e a quanto pare sì, però ci vuole anche così la capacità di mettersi un po' in gioco. Allora, ti volevo leggere questo messaggio di Roberta, che ha 31 anni e dice: la laurea umanistica non mi è servita vita nulla. Dopo aver lavorato anni saltuariamente, ho deciso di aprire una pizza al taglio. Speriamo bene. Tu cosa dici, Davide? Ma io dico che in molti casi le lauree servono per dare una formazione, anche una forma mentale alle persone. Poi non è detto che facciano tutte lo stesso lavoro per cui hanno studiato. Io sono laureato in scienze politiche e quasi laureando ero in economia e commercio. E mi volevo prendere la seconda laurea, poi mi mancava un po' che esame, ho lasciato, però devo dire che quello che poi ho fatto nella mia vita sì, mi è servito come cultura generale, mi è servito anche come forma mentale, mi ha dato tante cose, però non è che ho fatto il diplomatico, ho fatto il politico, ho fatto il sociologo, ho fatto tutt'altro. Quindi io credo che oggi bisogna prendere forse a meno di lauree super specialistiche, come può essere il medico, che bene o male ti dà un indirizzo generale, ma filosofia, scienze politiche e tante altre facoltà, secondo me bisogna prendere proprio per scoprire nel tuo cammino cosa vuoi fare nella vita. Ecco, proprio qui poi volevo arrivare alla pizza al taglio, perché le pizzerie ormai sono una dietro l'altra. Sì, ma direi che forse le gelaterie le battono 2-0. Ah, può essere, non lo so, sono sì, più appassionato di pizza che di gelato, ma per sai, questo ne vedo di più. La pizzeria, forse la pizza al taglio è una delle cose più semplici da imparare a fare probabilmente, e quindi uno si mette a quello, probabilmente chissà perché la pizza al taglio non altro, bisognerebbe chiederlo a Roberta. Comunque io non, come posso dire, non diventerei matto a pensare ho studiato poi devo fare un'altra cosa. Invece ci sono dei problemi, chi ha studiato 4-5 anni intensamente non trova posto di lavoro, questo sì è il vero dramma. Se uno trova un'altra via nella propria vita io credo che vada bene, il problema è che sicuramente non sempre si trova. Tra l'altro proprio guarda un'ora fa ho letto una recensione di un libro sui freelance, sì, che è uscito un libro che parla dei freelance, dove dice che diciamo è uno dei settori in molti campi, perché non è solamente il giornalismo, c'è la creatività, c'è la grafica, sono tanti, e dice che il problema molto grosso di questo è che uno ha finito di fare una vita di freelance, se non si mette via qualche soldo alla fine non ha nulla. Non dirlo a me, lo conosco molto bene quel problema. Ma sai, il problema è che anche questo bisognerebbe porsi il problema di dare una qualche forma di garanzia a chi fa il freelance, non gliela dai durante la vita lavorativa, quindi bisognerebbe dargliela probabilmente sul finale. Ovviamente sono d'accordo con te, scusa se ti riporto a questo punto però sull'enogastronomia Davide, ma perché volevo chiosare, ma proprio con questo volevo tornare alla pizza, perdonami. Allora, a parte questa scelta, quella di Roberta, secondo te la pizza al taglio una società che va sempre più di fretta, sì. La pizza al taglio è come l'hamburger, è come il cibo di strada, cioè la pizza al taglio è che non impieghi, non la devi ordinare, non ti devi sedere, non devi attendere, non paghi il coperto, non paghi tutto il resto e te ne vai, risparmi e vai veloce. Secondo te è giusto associare la pizza alla birra come si fa sempre, o come dicono molti è meglio di no perché entrambi contengono lieviti? Te lo chiedo perché è una domanda che ci si pone sempre. Ma sai, io non sono un salutista di quelli estremi. Io credo che la pizza è una cosa che non viene fatta molto spesso, è quella di abbinarla al vino, specialmente d'estate. È vero. Secondo me si adatta moltissimo al vino. ad esempio i vini rosati, cioè quelli leggeri. Dei vini leggeri io credo che sia adattissimo. Ora non voglio fare la differenza tra margherita, capricciosa, i quattro formaggi, dico che in genere la pizza si può anche mangiare. Quella dei lieviti, beh, certo che è noto che la birra è un po' gonfia, su questo non ci sono dubbi, però secondo me ci vuole qualcosa di frizzante in bocca quando si mangia la pizza, perché così va giù meglio. Ecco, io quello che non concepisco è la pizza con l'aranciata, che vedo in certi tavoli di pizzerie, e la pizza con la Coca-Cola. Ecco, secondo me è lì altro che lieviti, cioè siamo messi ancora peggio, insomma. Quindi devo dire che la pizza, l'ideale, a me piace molto con la birra, però non disdegno quella col vino. Ecco, va bene, allora così insomma avrai massacrato la metà delle persone che invece spesso ci associano le bevande gassate che hai citato, e in effetti è vero che si fa molto spesso, ma magari stiamo dando un'indicazione ad assaggiare qualcosa di nuovo. Grazie Davide, come sempre. Non sono la verità, vabbè, a me però, mi piace. È sempre una proposta, sai, le proposte bisogna ascoltarle, magari provarle, poi si decide se continuare su quella strada o tornare sulla propria. L'importante è accettarle. Grazie Davide. Buona domenica. Anche a te. E continuano ad arrivare tantissimi messaggi che hanno a che fare con il lavoro, e adesso giochiamo, c'è il mistero in 24 minuti, e sarà uno di quegli argomenti che dovremo poi riprendere in un altro modo, sicuramente, però grazie davvero. Volevo dire anche a Enzo, che ha scritto, dice: mi date le informazioni per gli incubatori. Allora, sono tanti gli incubatori in Italia, in varie regioni, in varie città, e bisogna inserire la parola incubatore in un motore di ricerca e poi andare a trovare quelli che più fanno al caso proprio. Lo dico perché sennò l'elenco sarebbe piuttosto lungo. E poi ci sono altri tanti messaggi che non riesco a leggere. Adesso è il momento di farvi portare a casa, spero, un bel premio. Il riposo del guerriero. 11:39 minuti, pronti col nostro cronometro, pronti a risolvere un mistero. Un mistero in 24 minuti. 1000 euro da spendere su libreriarizzoli.it, libri sia cartacei sia elettronici. Dovete dare la risposta, e può essere una notizia della settimana oppure un personaggio conosciuto o qualcosa, insomma, di famoso, e dovete arrivare alla soluzione attraverso gli indizi musicali che tra poco vi farò ascoltare. Più indizi ascolterete, però, più il premio si abbasserà. Il numero verde 800 24 00 24. Ecco il primo indizio. I said something wrong, now I long for yesterday. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Pensate che nel 65, quando McCartney compose questa straordinaria canzone che è Yesterday, per molto tempo, per un mese circa, ha pensato di così averla copiata a qualcuno. Lui ce l'aveva in testa questa melodia e era convinto quindi che in qualche modo di averla sentita. Invece ovviamente non era la verità, è la canzone assolutamente sua. Rita da Milano, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Visto con quale bella canzone abbiamo iniziato. Non male, non male. Allora Rita, cosa vogliamo fare? Siamo a 1000 euro ovviamente. Ma tu puoi. No. Io ho avuto, l'ho associata immediatamente a una cosa. Hai avuto una visione, quindi. Mi butterei così. Provaci Rita, chissà, magari l'intuizione. Ho pensato all'arresto di Stroscani in aereo a New York. Non so, le parole, a parte alcune, sembrano perfette, purtroppo. Chi lo sa, potrebbe essere, non posso dirtelo, lo saprai ovviamente allo scoccare del 24esimo minuto. Per te sarebbero 1000 euro. Grazie Rita. Grazie a voi, arrivederci. Buona giornata, grazie. Sergio da Bari. Sì, sì, buona domenica. Anche a te. Dopo sono stato anticipato perché yesterday all my troubles seem so far away, non può essere che sto scanne. Mi dispiace che Rita mi abbia anticipato, ma è quella lì. Senti, allora Sergio, visto che sei così convinto, Rita ha detto il personaggio, tu puoi dare la notizia invece, sì, no? Sì, la notizia, sì, certo, la notizia, come no, come no. Ne sono convinto da ieri, dal ritorno dall'Assemblea dell'Avis Nazionale, anzi invito tutti quanti a donare sangue perché c'è tanto bisogno, chiuso la parentesi, e mi sono convinto subito, non può essere che la notizia dell'arresto di Strauss-Kahn. Benissimo, Sergio, grazie anche per l'appello, buona domenica. Poi... Avete una linea editoriale formidabile, complimenti davvero, un servizio pubblico fatto da privati encomiabili, siete davvero unici, davvero grazie, grazie a te. Anche a te e voi ascoltatori ovviamente, senza di voi dove saremmo, grazie, ciao. Paola da Udine, buongiorno. Buongiorno, io temo di essere la terza che c'è cascata, stessa canzone, stessa notizia. Adesso, mentre sentivo parlare i miei gli ascoltatori che mi hanno preceduto, ho detto, boh, ci sarà qualche altra notizia che va d'accordo con Yesterday, sinceramente. Magari sì, magari sì. Non so, sono troppo fissata probabilmente su quello, perché anche riascoltando la canzone c'erano proprio altri rimandi che mi mandavano sempre. Vuoi sentire un secondo indizio o vuoi buttare un'idea diversa, ovviamente? Perché... Proviamo un secondo indizio. Allora diamo gli aggiornamenti sul traffico e poi l'altro indizio, okay. E scendiamo a 500 euro. Un mistero in 24 minuti. Siamo soltanto a un indizio, abbiamo ancora 1000 euro, vi ricordo il numero verde 800240024, ma Paola da Udine, che sta giocando in questo momento, ha chiesto un secondo indizio. Senza peccato, chi è senza peccato, dica la verità. Senza peccato, senza peccato, chi è senza peccato, scagli la prima pietra. Paola, ti piace Pino Daniele? Sì, mi piace Pino Daniele, ma mi fa ancora rinforzare sulla... Non mi viene proprio in mente nessun altro che possa essere senza peccato. No, in effetti resto su Strauss-Kahn, perché anche questo secondo indizio, secondo me, si riconduce a quello. In effetti, no. Ti do ragione, nel senso che in effetti... Sì, è così. Quando uno parla di peccato. Concordo con te, Paola. Ma quindi che risposta diamo? Non ne hai un'altra? Perché no, nel senso che le altre sono già state date, sia la notizia sia il personaggio. Lo so. Non so, adesso potrei appunto ricondurmi agli sviluppi di quella notizia, per cui praticamente sta cercando in tutti i modi di dimostrare la sua innocenza. Certo. Anche assoldato, diciamo, degli investigatori privati per poterlo fare, per cui vedremo come andrà a finire. Intanto ha sborsato un bel po' di soldi, no? Per grazie. Poter Vai. Uscire. Grazie Paola, credo grazie. Milioni di euro, buona di dollari, buona domenica. Giulia, eccolo qua. Mancano 5 minuti alla soluzione del mistero. Dobbiamo risolvere sto mistero. Giuliano da Cremona, buongiorno. Buongiorno. Allora Giuliano, cosa vuoi fare? Abbiamo due indizi, per qualcuno sono anche non sono simili, però li ha associati. Vuoi un terzo indizio? Li ho associati, invece quindi ne chiederei un terzo. Vuoi un terzo? Eccolo qua. Ma non pensiamoci con una stretta di mano. Da Ridiamo per lì, arrivederci. Allora, questa è una canzone che è stata cantata da tantissimi artisti, ma il primo che la portò al successo fu Marino Barreto, e quindi questa è la versione, diciamo così, originale di Arrivederci. Allora, Giuliano, questo è il terzo indizio e siamo a 300 euro. Non so, diciamo la cancellazione del programma di Sgarbi. Grazie Giuliano, non posso dirti nulla, buona giornata, ciao. Buona giornata a voi. Mara dalla provincia di Frosinone, Mara. Sì, salve. Ciao Mara, allora. complimenti per la trasmissione innanzitutto. Grazie. Io avevo pensato invece alla notizia del rifiuto dei condomini di Stroscan di farli entrare appunto in questo condominio di lusso. Però non so, adesso da quest'ultima canzone sono stata un attimo spiazzata. Perché la risposta non è quella giusta, bisogna spostarsi da lui, non è lui. Grazie Mara. Buona grazie domenica. Ciao, grazie Enzo da Reggio Emilia. Eccomi, ciao. Enzo, spostiamoci da Strauss-Kahn. Sì, infatti l'hanno detto tutti. Allora, io una mezza idea ce l'ho, però chiederei il quarto indizio. Il quarto indizio, eccolo qua, siamo a 200 euro. Till the snow falls on the Sahara and the sun freezes over, till the Mojave red turns into blue. When my lungs get tired of breathing and my heart stops its beating, then I'll stop loving you. And eccolo qua, allora il quarto indizio. E siamo a 200 euro. Questa era Natalie Cole con Snowfall on Sahara, che vuol dire tormenta di neve nel Sahara. Dice: io ti lascerò solo quando arriverà una tormenta di neve nel Sahara. La risposta è qui, è nel quarto indizio. È qua, ce l'ho qui. Snowfall on Sahara. Hai 10 secondi. 9, 8, 7. Sahara, direi allora. Ah sì, dai, la guerra in Libia, Gheddafi, la guerra in Libia, che cerca Gheddafi, non lo trovano. Invece no, non hai trovato neanche la risposta, mi dispiace Enzo. Niente, dai, prossima volta. Assolutamente ciao. Sì, grazie, ciao. Hanno chiuso uno degli hotel più famosi di Las Vegas, l'Hotel Sahara, purtroppo. E il proprietario ha salutato tutti da un giorno all'altro dicendo: io chiudo, arrivederci. Ecco perché c'era arrivederci la canzone Yesterday, perché i Beatles sono stati ospiti di questo albergo, è diventato famoso anche per quello. Senza peccato, perché sapete che Las Vegas è la città del peccato. Arrivederci, ve l'ho spiegato, e Snowfall Sahara perché c'è il nome dell'albergo. Grazie a tutti, ci sentiamo domenica prossima puntuale alle 10 con il riposo del guerriero. Grazie a Giorgio De Luca in redazione, Margherita Frarelli in assistenza, Paolo Corleoni in regia, e ancora buona domenica da Stefano Gallarini.